avevi detto col tuo piglio profetico. Il mio difetto è che non entro nel merito. Osservo il mondo e resto soltanto un attimo. Da un po' di tempo poi sei sceso dal pulpito, ma non per questo adesso sei più simpatico. Vendi consigli, dispensi il tuo senso pratico. A volte sai, mi ricordo com'eri, quando credevi in tutto ciò che dicevi. Ripenso a tutti i nostri falsi problemi, le soluzioni che non ho trovato più. Stammi vicino ma resta lontano, dammi un pretesto per darti la mano. C'è chi mi dice che è tempo sprecato, che non ritorna più ciò che è passato. Cerco gli accordi per dirtelo adesso, forse è già tardi ma provo lo stesso. Se non mi ascolti allora io canto e ti racconto di questo rimpianto. Abbracci il mondo col tuo sguardo poetico, all'improvviso senti quanto è ridicolo. Torni nei ranghi, ma dura soltanto un attimo. Quanto ti piace rimanere un po' ermetico, quando ti chiedo il tuo pensiero politico. Troppo complesso, l'equivoco è dietro l'angolo. A volte sai, mi ricordo com'eri, quando credevi a tutto ciò che dicevi. Ripenso a tutti i nostri falsi problemi, le soluzioni che non ho trovato più. Stammi vicino ma resta lontano, dammi un pretesto per darti la mano. C'è chi mi dice che è tempo sprecato, che non ritorna più ciò che è passato. Cerco gli accordi per dirtelo adesso, forse è già tardi ma provo lo stesso. Se non mi ascolti allora io canto e ti racconto di questo rimpianto.